più meglio sapendo. No, no, sì, per... io parlo in italiano e traduce no, era, cioè, vabbè, c'è sempre questa domanda tra della rivoluzione, no? E che prima di farne anche la rivoluzione? Quindi la rivoluzione rimanda sempre a una soggettività, no? Quindi alla ricerca di un soggetto e della rivoluzione. Che ci sono davanti ogni soggetto. Però nella società, diciamo, postmoderna o neomoderna, la soggettività è più è meno lineare, è più complessa. Ja, und in der postmodernen Gesellschaft ist die Subjektivität nicht mehr so linear, sondern komplexer. Es fasse di molte relazioni, anche di complicità. Besteht aus verschiedenen Verhältnissen, die miteinander verknüpft sind. Quindi, diciamo, non è che la classe scompaia nel post-Fordismo, o nel postmoderno, la classe non scompare. Die Klasse verschwindet nicht. Però ci sono, come dire, è una classe molto più diversificata, no? Ma la classe è diversificata. Ed è molto difficile da ricomporre. Und die Neuzusammensetzung, oder die Zusammensetzung der Klasse stellt sich als ein Problem da, ist sehr schwierig. Ci sono conflitti dappertutto in Italia. Cioè, nella fine degli anni 80 molti conflitti col centro di Bologna, no? La Telecom, gli studenti universitari, però è come non si riesce a trovare un linguaggio comune e tutti lo rifiutano anche. Und es gibt viele Konflikte, ihr habt es beschrieben, also bei der Telekom in Bologna, das Beispiel bei der Telekom oder die Studenten, aber alle sprechen unterschiedliche Sprachen und es gibt keine. Però io credo che il call center siano anche un punto strategico della produzione post-fordista, no? Sono molto strategici perché la produzione post-fordista si basa sulla comunicazione e sulla, diciamo, la rivolgere l'attenzione verso customer direction, no? La direzione del cliente. Ok, und also Callcenter sind schon strategischer Ort im Postfordismus, weil es sich darum handelt, die Produktion läuft über Kommunikation und es gibt so eine Kundenbeziehung, also Customer Relation, in diesem Produktionsablauf oder in dieser Arbeit. E questa, infatti, quando ci sono, perché le imprese comunicano con la società attraverso proprio questi call center. C'è proprio un punto di comunicazione, no? Molto importante, no? Cioè non solo attraverso la pubblicità, no? Also es gibt innerhalb der Gesellschaft, che le imprese comunicano con la società, also, dei clienti, non solo attraverso la pubblicità, ma anche attraverso la comunicazione diretta, no? Also die Callcenter stellen eine direkte Beziehung her zwischen den Kunden und dem Unternehmen und auf einer anderen Ebene macht es auch die Werbung, aber bei den Callcentern ist es direkt. Sulla questione per esempio della call center della Telecom, no? Quello che accade è che c'è stata prima una privatizzazione. Also am Beispiel Telekom, das erste was passiert ist eine Privatisierung. La privatizzazione è comunque servita a far fuori tutte le resistenze di classe, no? Diese Privatisierung hat zunächst mal den Klassenwiderstand gebrochen, oder? E anche le rigidità della pubblica, no? Il quadro pubblico, no? Il rigido, le regole pubbliche.